FM, Milano, Italy. I'm in the business of misery. Let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long while, she finally set him free. I told him I can't lie, he was the only one for me. 2 weeks and we caught on fire. She scared out for me, but I went the biggest smile. Never change. What's the whore? You're nothing more. I'm sorry, that'll never change. And about forgiveness, we're both supposed to have a shame. Sorry, honey, but I passed it up. Now look this way. Well, there's a million other girls who do it just like you. Looking as innocent as possible to get to who. They want it what they like. It's easy if you do it right. Well, I refuse, I refuse, I refuse. Con un loro mega classico, tra l'altro proprio ieri qualcuno mi stava raccontando che Mick Jagger viaggia senza, mi ha detto, quando lui si sposta da una città all'altra in occasione di un tour non ha mai valigie. E io sono rimasta mezz'ora a pensare, ho detto, ma perché Mick Jagger non ha valigie? E poi la soluzione, cioè la risposta era praticamente molto semplice, però io stranamente non ci ero arrivata, ovvero Mick Jagger ha quasi una casa in ogni città in cui suona. Quindi lui prende il suo aereo privato, scende dall'aereo, ovviamente dall'aeroporto a questo trasporto, tipo il teletrasporto, nel suo appartamento, dove giustamente ha l'armadio, il guardaroba e tutto. Quindi si cambia, sta lì un po', si rilassa un attimino, poi è pronto per suonare. Brutta vita, dura, dura, durissima, però d'altronde lui è Mick Jagger e basta veramente solo il nome. Ma domanda, dopo il 31 maggio il sito di Rock FM resterà? Sono curioso di riascoltare alcuni programmi in archivio, ma per noi no, per noi assolutamente no. Per noi in questo momento e soprattutto dopo il 31 esiste solamente www.rockfamily.it, il resto non importa, il resto non conta. Saluto anche Fabio, dice il brano dei Nightwish fa da colonna sonora ad un film che si chiama Liesca. Non so se in Italia sia stato distribuito. Grazie Fabio per la tua indicazione. Saluto chi non riesce più a sentirci via streaming, forse il temporale può essere. Saluto Lucy, dice, sta per passare il Giro d'Italia davanti a casa mia. Cosa faccio? Esco, vado a vedere? No, resto dentro e ascolto Rock FM spaparanzata sul divano. Fantastico, la cosa più bella del mondo. Saluto anche Fungo, saluto anche Daniele di Firenze, da Firenze, dice: l'altra sera con Edo e Mox mi avete fatto morire dal ridere, una riga di minchiate, ma dove la trova? Mox è bello così, ma Mox è talmente concentrato quando è in onda che non lo puoi distrarre, quindi io Edo, cioè, come un po' ai bambini dire: guarda, non puoi fare quella cosa, i bambini, ma è scontato che lo, cioè, proprio dopo due secondi lo fanno. E quindi quando Mox ci ha detto: ragazzi, però sono in onda, dai, fate i bravi, lì è finita, aspettavamo che accendesse il microfono per arrivare e rompergli così le palle, anche perché poi lui andava in sbattimento, lui annunciava delle canzoni meravigliose, mi ha dedicato questa dei Dead Can Dance, quindi era, sudava da quanto era impegnato, e noi giustamente abbiamo rovinato il tutto, perché siamo due idioti, io e Edo, quindi, ma va bene così, è un po' il nostro furio, Mox, giustamente a quelli precisi ti diverti a rompere. Sì, che bello. Adesso vi lascio con Xavier Rudd, questo Stargaze. Australiano, lui però non copia gli SDC, al limite può essere associato a Ben Harper, però i due sono anche amici, insomma, hanno in comune la passione per il surf e sono grandissimi musicisti, sanno entrambi suonare tantissimi strumenti. A Ben Harper e anche come a Xavier Rudd piace girare a piedi nudi, bella, una braghetta, un infradito e sei assolutamente a posto. Xavier Rudd riascoltato allora con Stargaze. In arrivo Tarja, la bella Tarja Turunen, che proprio ieri sera ha suonato a Milano, gran bel concerto, devo dire un'ottima band, beh, a parte che alla batteria c'è Mike Terrana, quindi insomma un nome e una garanzia, al basso Doug Wimbish dei Living Color, che ha suonato con i Living Color, che ha suonato appunto anche con Mick Jagger, veramente un'ottima un'ottima band, c'è il fratello di Tarja, Tony Turunen, che non si può guardare perché è un, cioè, è piccolino ma è tutto muscoloso, con ste canotte un po', ecco, mi ricordava, se devo essere onesta, adesso i fan di Manowar mi ci mandano, mi ricordava molto come Luke Eric Adams, così. Poi una un grandissimo violoncellista, una bella tastierista e via, grande band al completo per questo concerto di Tarja. Lei ha una voce meravigliosa e tra l'altro, poverina, le abbiamo raccontato della radio, si è commossa. Alla fine praticamente eravamo noi a dover consolare Tarja, questa è stata una scena abbastanza particolare, però poverina era veramente dispiaciuta e si chiedeva ma perché? E guarda, Tarja, we don't know. Però ce la riascoltiamo con I Walk Alone. Put all your angels in the air. Keep all the roses unattended. I left the thorn under your bed. I'm never gonna go tell the world I'm still around. I didn't fly, I'm coming down. You are the wind, the only sound whispered in my heart when hope is torn apart and no one can save you. Thick nose, and I get a whiff. Mark Keenan, in questo caso non con i Tool ma con i Pucifer, con la loro Queen Bee. Da B is for Vagina, il titolo del loro primo album. Allora, un po' di saluti. Saluto Sixteen, dice: domani è l'ultimo giorno di programmazione normale. Eh sì. Poi settimana prossima è tra ospiti, una cosa o quell'altra. Penso che faremo un po' come quando vai a scuola, che non rispetti gli orari. Ovviamente ci dovremmo mettere d'accordo, però vogliamo che sia una settimana molto molto intensa, con il ovviamente con lo staff di Rock FM al completo. Non dico 24 ore su 24, ma sicuramente le giornate le passeremo qui. Sì, anche perché poi vabbè, non parliamo di questo. Saluto Fungo, dice: poi per piacere se Lucy è di Imola, perché anche davanti a casa mia sta passando il Giro d'Italia. Penso proprio di sì. Saluto Simona, dice: questa tipa è l'eleganza fatta persona in tutto, non ci hanno guadagnato a cacciarla, il binomio era perfetto. Ovviamente penso che tu stia parlando di Tarja Turunen. E tra l'altro, sempre Tarja, ovviamente le abbiamo raccontato della radio e le abbiamo detto: guarda, insomma, è brutto quando credi in una cosa, poi quando finisce pensi che sia un'ingiustizia. E poi ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto: ma forse tu, cara Tarja, ci puoi capire. E in effetti anche lei ha detto: anch'io quello che ho passato con i Nightwish è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, io ci credevo molto nel progetto, nella band. E poi a un certo punto, un giorno, mi hanno comunicato appunto che il tutto sarebbe finito, e ho passato dei mesi bruttissimi. Ed è proprio per questo che lei capiva bene o male quella che è la situazione anche all'interno della radio. Saluto Fabio di Bagnacavallo, dice: ho appena realizzato che non potrò condividere con voi il Gods di giugno. Beh, in radio no, però noi ci saremo, quindi assolutamente sì, potremo condividere il Gods, dai. Poi c'è appunto anche il sito rockfamily.it, lì in una maniera o nell'altra interagiamo, stiamo insieme, non ti preoccupare, anzi, se non ti sei ancora iscritto, fallo subito. Ma subito. Oh, rockfamily.it. Intanto continuiamo con un'altra band a noi molto cara. Non vediamo l'ora di ascoltare le nuove canzoni, ma più che altro non vediamo l'ora di un eventuale tour. Stiamo parlando ovviamente dei Motley Crue. Si intitola Saints of Los Angeles, il nuovo album, come il singolo che abbiamo in sottofondo. Motley, questa Saints of Los Angeles. We are the saints. We sign your life away. Doesn't matter what. Motley Crue con Saints of Los Angeles. Ora c'è una piccola pausa, tra pochissimo i Jethro Tull con Living in the Past.